Buonasera a tutti, eccoci di nuovo in questa puntata di Cronache della Capitale. Buonasera a tutti, come vedete, innanzitutto prima dei saluti, notate l'assenza di Claudio che non è potuto essere presente in questa puntata per impegni personali. Comunque, vogliamo ringraziare anche l'ospitalità di Giuseppe Dari alla regia. Un saluto Giuseppe, ce lo fai? Ciao ragazzi, ciao a tutti. E ecco, sono qui in compagnia del mio computer perché volevo farvi un regalo che non è semplicemente, non so se Giuseppe riesce a inquadrarla anche questa bellissima icona, questa natività del Caravaggio a Messina. E ovviamente non è che un modo per sostituire Claudio. Però poi c'è un motivo per cui è qui presente con noi questa Madonnina che ci darà compagnia, questa natività. E quindi quello che vi volevo dire, ci sono ovviamente parecchie notizie da commentare, però ci vogliamo. Puoi inquadrarmi anche a me, Giuseppe. Ci sono parecchie notizie, ovviamente a Roma. Sono successe parecchie cose, per esempio ci sono stati due gigolò che sono stati arrestati perché volevano ricattare per 20.000 euro un impiegato di banca e l'avevano minacciato perché volevano pubblicare un video hard. Altre notizie, per esempio al Pigneto, sempre a Roma, è stata violentata una cameriera drogata e fatta bere dal suo datore di lavoro, è stato arrestato il ristoratore. Oppure, velocissimamente vi sto citando queste notizie perché, ripeto, a Roma di cose ne accadono tante, ma che riguardano strettamente la capitale. In Campidoglio c'è stata attenzione fra le forze della polizia e Forza Nuova, sono stati respinti perché hanno tentato di entrare al Palazzo Senatorio. Il motivo era è a rischio lo sgombro a Via dei Giacomini per 35 famiglie. Ora, è vero che noi ci occupiamo di notizie della capitale, però ci tenevo a farvi un regalo, nel senso che a tanti eventi che sono successi, ce n'è stato uno il 19 novembre scorso, sabato scorso, che ha riguardato Roma, riguardato soprattutto il Popolo della Famiglia, perché c'è stato questo convegno a cui ha partecipato Mario Adinolfi, ha partecipato Giuseppe Brienza come moderatore e Sara Deodati, hanno parlato di educazione e la cosa che come vedete, la cosa prego a Giuseppe se riesce comunque a inquadrare oltre a me anche un pochettino questa immagine. Questa era la locandina del dell'incontro che è stato fatto e cosa potete notare che c'è un sottotitolo che io ho riscritto un pochettino più in evidenza, cosa c'è dietro l'angolo. Ecco, ovviamente Mario Dinoffi ha fatto un bellissimo discorso, Sara Deodati ha presentato anche questo bellissimo percorso che si fa nelle scuole che si chiama Pioneer, che è un po' l'alternativa ai corsi che fanno le famose associazioni LGBT nelle scuole. Ecco, ha parlato anche di questo Sara, hanno parlato di tante cose, ma mi sembra che in sostanza Maria Dinolfi potrei riassumere il suo discorso in una parola che vi voglio qui in qualche modo far presente. In sostanza, Maria Dinolfi, se dovessimo riassumerlo in una sola parola, ha parlato di reificazione e molti di voi già la conoscono questa parola, come vedete nel computer. Spieghiamo che cos'è, dal res cosa e dal latino facere fare, far diventare oggetto, rendere cosa o detto un po' volgarmente cosificare. Vi voglio fare un regalo, dicevo, perché faccio un sunto tra questo bellissimo intervento di Maria Dinolfi il 19 novembre scorso e il convegno del nostro amatissimo. Adesso faccio un gioco di parole, Gianfranco Amato che andò a Zogno con Empovia ha fatto anche lui un bellissimo incontro e praticamente lui ha parlato di Sgarbi, il famoso, il noto critico d'arte, il quale ha scritto su un articolo, ha scritto di Nichi Vendola quando c'è stato l'evento della nascita del figlio, e, che in realtà figlio non è, e comunque riassume un pochettino quello che ha detto Maria Dinolfi. Vi vorrei leggere una bellissima lettera, questa bellissima lettera che ha scritto Sgarbi, che tra l'altro dobbiamo anche capire che è un insospettabile, nel senso che non possiamo pensare che Sgarbi appartenga al popolo della famiglia, ma quando c'è qualcuno che dice la verità esce fuori con tutta la sua bellezza. E allora io vi leggo questa bellissima lettera che ha scritto Sgarbi, Vittorio Sgarbi, il critico d'arte, a Nichi Vendola in occasione della nascita, diciamo così, di Tobia. E ve la leggo. Ho guardato anche mamma Niki nell'intensità del suo gesto. Ho visto in modo esclusivo, intenso, perfino drammatico, l'amore egoistico, il desiderio di possesso, più ancora che la protezione del bambino. Nessuno potrà strapparmelo, sembra dire Niki. E non è l'atteggiamento materno della mamma che sostiene e scalda il bambino della natività di Cavaraggio a Messina, quella che era nell'immagine, ma la concentrazione ossessiva e infantile di chi stringe una cosa che è sua. Il piccolo Tobia appare un capriccio soddisfatto. Nello stringerlo Niki sembra dire giù le mani, è mio, come direbbe di un orsacchiotto di peluche o di un cagnolino. Nulla di male, ma il bambino è una persona che ha diritto a una madre. Vi rendete conto che belle parole, che parole di verità, che ha diritto la madre, la quale, anzi, le quali peraltro esistono. Può darsi che nel tempo si abitui ad estranei che lo hanno sostanzialmente rapito senza neppure la prospettiva di un riscatto. Ecco, e qui torniamo al discorso di Maria Dinolfi, ecco la riduzione di una persona a cosa. Pure amatissima, è il limite dell'impresa di Niki ed Ed, che hanno avuto quello che volevano, con una determinazione che li rendi padrone di Tobia. Quando io ho sentito questo intervento che ha fatto Gianfranco Amato, quando ha citato questa lettera, contemporaneamente all'applauso che era uscito in sala, anch'io a casa non ho potuto fare a meno, mi sono emozionato per dire, vedi, quando qualcuno vuole abbracciare la verità, è bella la verità. Non è vero che fa male la verità, apparentemente fa male la verità, ovviamente fa solo che bene. Ecco, questo era semplicemente un piccolo, come dire, un piccolo pensiero che vi volevo fare, un piccolo regalo, perché dice Andrea, ma che c'entra con Cronache della Capitale? Ma quando c'è di parlare della bellezza è sempre buona ogni occasione. E ecco, io direi a Giuseppe, se la sente, se è pronto, noi invece vorremmo mandare un pochettino un'intervista che abbiamo fatto all'incontro a Mario Adinolfi, abbiamo intervistato anche un assessore ombra Guido Pianiselli, e quindi se Giuseppe è pronto lo manderei. Eccoci qua. Mario Marinotti, ti vogliamo ringraziare innanzitutto per questa ennesima prova e questa conferenza che ha dato per tutti noi, per tutto il popolo, per tutti, tutte le persone che hanno voglia di conoscere. Una domanda che avevo voluto fare, hai detto, continuerete, noi siamo responsabili del nostro futuro, perché siamo antichi del nostro futuro, le nostre azioni del passato lo hanno determinato, lo determinano. Che possiamo fare veramente come popolo, la famiglia, strillare, perché di fatto ci sentiamo molto soli, abbandonati. La prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo pregare tanto, che non fa mai male, e capire che nella preghiera c'è la forza che recuperiamo soprattutto per noi stessi. Noi ci sentiamo stanchi, diventiamo affaticati, è un percorso lungo che dura da tempo, dove in questo momento stiamo costruendo, quindi la fatica è enorme. La preghiera ci corrompe, ci dà forza. Poi dobbiamo unirci, nelle serate come questa sono serate in cui ci troviamo, no? Qui ci troviamo in tanti, oggi siamo una centinaia di persone che hanno voluto parlare insieme, dandosi forza l'un l'altro per non stare insieme. Poi comunicare, quello che fate a Cronaca della Capitale, dove invece di parlare a 100 persone, magari parlate a 500 persone. E questo è un elemento che dovete capire in maniera importante, fare quel lavoro di comunicazione cambia la leva del numero di persone che vi interloquisce. Poco la famiglia TV è un piccolo esperimento, ma già ha raggiunto centinaia di migliaia di persone in giro per l'Italia, che infatti non a caso più o meno ricordano i 52.000 voti che abbiamo preso sui nostri candidati sindaco. Quindi dobbiamo capire che siamo in un percorso, è una scalata difficilissima, ma allo stesso tempo doverosa. E allora si fa quel che si deve, questo è l'elemento fondamentale. Recuperando l'elemento di dovere, il tema di oggi era cosa c'è dietro l'angolo. Siccome non ci siamo noi dietro l'angolo, c'è la deriva antropologica in questo paese, è doveroso compiere questa fatica. Una volta che ti rassegni al doverlo fare, e poi lo fai tutti i giorni, come oggi siamo qui, domani a Bologna alla festa nazionale della Croce, poi a Trieste con l'arcivescovo Crepaldi, il giorno dopo a Pordenone abbiamo già il vice sindaco in pochi mesi, una cosa meravigliosa, il giorno dopo ancora a Medicina, noi che è la provincia di Bologna, non vado in ospedale, è un posto che c'è in Bologna, e lì troviamo sempre popolo che chiede a noi cosa fare. Allora noi non possiamo essere quelli dei dubbi, dobbiamo essere quelli che comunicano forza, una forza che però dobbiamo recuperare, perché poi siamo fragili, siamo persone umane, abbiamo i nostri limiti, e la preghiera su questo aiuta molto. Ciao Claudio, forza e viva Cronaca della Capitale! Vitale, Guido Pianiselli, ex candidato come presidente all'undicesimo municipio, no, è no, ottavo all'ottavo municipio. municipio per il Popolo della Famiglia, un grande indefesso lavoratore per il Popolo della Famiglia, in prima linea su tanti fronti. Una impressione su questa serata, quanto detto da Mario e da Giuseppe. Allora, quando noi sentiamo Mario, sicuramente ci si illuminano tanti aspetti che non conosciamo. Per noi che siamo nel popolo della famiglia, a volte queste sono delle ripetizioni, ma per tantissima gente nuova che era qua è veramente la scoperta di un mondo che i media, che purtroppo falsificano la realtà e danno solamente informazioni completamente fuorvianti. Praticamente è un'informazione che arriva direttamente alla persona, al cittadino, e molti qui oggi hanno scoperto delle verità che non conoscevano. E quindi Mario è importante, importantissimo che continui a fare questi incontri, così come il nostro segretario Amato, perché danno un'informazione corretta, che oggi purtroppo non ci dà più nessuno. Grazie, Guido. Eccoci, questo che siamo riusciti a farvi questo servizio, l'avete visto, avete visto le parole, sentito le, visto le parole di incoraggiamento di Mario, che addirittura ha detto la preghiera, ha detto non si fa quel che si può, ma si fa quel che si deve. Ecco, questo è molto bello e ci incoraggia. Ora, come avete capito, devo andare avanti con le notizie perché è stato fatto un po' questo discorso che esula, è vero, dalle notizie della cronaca della capitale, però ci riguarda, come avete visto. E vi parlerò, ecco, se Giuseppe riesce a inquadrare leggerissimamente anche il computer, vi parlerò del Papa, della chiusura dell'anno giubilare, vi parlerò del patriarca della Chiesa Ortodossa Russa Kirill e vi parlerò del dissesto dell'ATAC, veramente siamo in una sezione di dissesto. Tra l'altro abbiamo anche un servizio che vi proponiamo dopo questo mio commento. E allora, praticamente, Giuseppe, guarda se riesci a inquadrarmi, perché credo che stia inquadrando soltanto il computer, e se riesci a mettermi anche i messaggi, perché così riesco pure a commentare se qualcuno vuole dirci qualcosa o vuole darci un contributo. Ma intanto ci saluta Claudio Parisini, che anche se assente, ciao, dice Claudio, io sono qui presente con voi. Bravo. Per cui noi lo salutiamo di cuore. Anche spiritualmente, grazie Claudio. Anche Silvia, Simon Pietro, Pepo Carta, che dice che ogni tanto il video si blocca, ma a volte la connessione purtroppo ci crea dei problemi. Grazie. Grazie Giuseppe. Allora, io prima di parlare del dissestato vi devo dire che ho trovato anche notizie che riguardavano lo sciopero che ci sarà domani e vi facevo vedere cosa è uscito sui giornali, ecco, se riesce anche a inquadrare questo. Praticamente definiscono l'AMA e l'ATAC come degli acronimi del nostro scontento quotidiano, e così praticamente parliamo dell'ennesimo sciopero. E la cosa che ci incuriosisce è che l'ennesimo sciopero di venerdì, un venerdì di passione, ma come mai sempre a ridosso del fine settimana? Addirittura qualche volta questo sciopero raggiunge pure il lunedì, è successo 5 volte nel 2016 tra le due aziende ATAC e AMA. Vi ricordo che questo venerdì lo sciopero riguarderà pure l'AMA. Insomma, sembra che questi scioperi si sincronizzino un pochettino anche con gli eventi sportivi, con le partite di calcio, no? Quello che è successo con l'incontro con la Germania con la scorsa settimana. Ovviamente il risultato non è un risultato calcistico, è un caos per noi che viviamo. Immaginate noi romani che siamo abituati, ma immaginate i turisti che vivono la nostra città per svago, per piacere. E praticamente i disagi li viviamo questa volta, questo fine settimana, spalmati praticamente su 3 giorni, perché avremo l'ennesimo disagio anche sulle metro. E a partecipare al sciopero sarà, oltre che ATAC, anche Roma TPL. Si pensa a un'adesione che arriva fino al 70%, quindi ovviamente tanti tanti disguidi per noi romani, aumento del traffico, ma anche purtroppo, visto che c'è di mezzo anche l'AMA, ci avremo problemi anche con i rifiuti. Praticamente se andiamo a fare un piccolo censimento molto semplice, perché noi romani che viviamo questi disagi ce ne siamo già accorti, nel 2016 i trasporti si sono fermati 10 volte, se andiamo a contare quella di domani arriviamo a 11, insomma una volta al mese, insomma ci sembra un po' eccessivo. Anche AMA ha fatto il suo, ovviamente ci ricordiamo quest'estate, erano le date del 30 maggio e del 15 giugno che l'AMA ci ha lasciato con i rifiuti per le strade, ci ha lasciato con una Roma diventata un'immensa e maleodorante pattumiera, con il rischio di allarme sanitario. Ecco, questa era una notizia che vi volevo dare veloce, perché tra l'altro riguarda pure domani purtroppo, quindi chi deve andare al lavoro probabilmente si dovrà organizzare con le automobili. Ora, prima di mandare questo servizio che vi dicevo prima, abbiamo fatto anche con l'assessore ombra Guido Mastrobuono, assessore ombra della Giunta del Popolo della Famiglia, assessore ombra ai trasporti, io vi volevo un pochettino parlare dell'ATAC e vediamo se c'ho. Ecco, queste sono le cifre che riguardano ATAC. Abbiamo 12.000 dipendenti, 1 miliardo e 35 milioni di debiti, un 2016 che si dovrebbe chiudere con un rosso che oscilla tra i 50 e i 70 milioni di euro, un'evasione tariffaria che su alcune linee, secondo fonti aziendali, arriva al 40%, cioè non pagare il biglietto arriva al 40% su alcune linee di autobus. Abbiamo ovviamente casse vuote, addirittura mancano i soldi per comprare le gomme e i pezzi di ricambio. Centinaia di bus fermi nei depositi per guasti, e a questo punto possiamo dire che l'ATAC affonda, o se vogliamo esprimerci in termini di linee di autobus, siamo arrivati all'ultima corsa. Se l'ATAC però affonda, possiamo dire che il Campidoglio tace, perché sembra che il Campidoglio a guida pentastellata stia tirando fuori la notizia, ovviamente la tiene nascosta perché è molto impopolare, molto controproducente, dell'aumento del prezzo di biglietti e di abbonamenti, che sono fermi dal 2012 a 1,50 euro. E tra l'altro una qualificata fonte aziendale riferisce che il biglietto dell'autobus è il più basso d'Europa. Beh, noi commentiamo semplicemente che è il più basso d'Europa e deve essere il più basso d'Europa visto i servizi che ci offre. Claudio ci dice: attenzione, sciopero con le stesse motivazioni di quello della scorsa settimana, solo che indetto dalla sigla sindacale differente. E come dice Mario, bisogna dare le cifre, i numeri, che non sono discutibili. Ok, grazie Claudio della precisazione. E insomma, sul tavolo dell'amministratore Manuel Fantasia c'è il dossier che parla dell'aumento del prezzo del biglietto. Ora, nonostante le previsioni del pareggio di bilancio annunciato per il 2017 e poi diciamo rimandato di un anno, però, come si dice, i conti non tornano. E così non decolla la valorizzazione degli immobili che ha ATAC, dei cespiti, di questi fatti praticamente di terreni, depositi, immobili. Sono 7 i cespiti che ha ATAC, che non decollano per una serie di motivi, diciamo burocrazia, e, opposizioni varie, regolamenti edilizi. Chi è che paga le conseguenze di tutto questo? Siamo noi. I passeggeri, siamo in particolare, visto che siamo a Roma, noi romani. Ora, in tutto questo la giunta pentastellata ha riprogrammato i mezzi di superficie e ha avviato una campagna chiamata Operazione Verità, che consiste nel ridurre il numero delle corse, il numero delle vetture, per garantire perlomeno la sicurezza dell'orario. Allora, questa soluzione, come potete capire, poi nel servizio abbiamo raccolto un po' le impressioni della gente, ci sembra un po' strana, perché si allungano, si dilatano gli orari, i tempi di attesa alle fermate, però allo stesso tempo si restringe lo spazio all'interno delle vetture e degli autobus, sempre più costretti come sardine all'interno delle vetture. E ora, questo disservizio che noi tutti i giorni sperimentiamo sulla nostra pelle, tenete conto che va a deprimere anche i conti di ATAC, perché meno corse significa meno remunerazione da parte del comune, così meno corse significa anche meno biglietti comprati, quindi non solo si danneggiano i passeggeri, ma si danneggia anche la stessa azienda. Tenete conto che nel 2015 i ricavi per i biglietti venduti è diminuito di quasi 9 milioni di euro a fronte dell'anno precedente, dal 2015, con partenza dal 2014. E per quanto riguarda Massimo Colomban, che è l'imprenditore nominato assessore partecipato, ancora non si è pronunciato sulle sorti di ATAC. Sappiate che Virginia Raggi, il sindaco Virginia Raggi, non vuole la privatizzazione, pensa ad una sorta di unione con le ferrovie, una sinergia con Ferrovie dello Stato, col gruppo Ferrovie, per partecipare insieme ad una gara europea nel 2019 che assegnerà i trasporti a Roma. Ma in realtà ci rendiamo conto che ATAC non è assolutamente pronta per fare questa gara, perché gli mancano i requisiti patrimoniali e finanziari per affrontare questa gara e per correre da sola. Ora, per vedere gli effetti di queste politiche bisognerà aspettare un anno, ma nel frattempo qui rischiamo il dissesto, cioè rischia proprio il collasso, ma anche però da un punto di vista della manutenzione dei mezzi, cioè per far circolare i mezzi in piena sicurezza, insomma, ce ne vuole ancora. Ora, quando si arriva a questo punto di dissesso, noi cittadini dobbiamo un po' allarmarci, perché la prima scusa che ci diranno è che la prima soluzione che vorranno prendere in considerazione sarà l'aumento del prezzo del biglietto. Ovviamente immaginate quanto sarà difficile farla digerire questa soluzione. Ora, in tutta questa, diciamo così, sommaria descrizione del dissesto ADAC, ci colpisce un pochettino questo sogno che coltiva il Campidoglio a guida pentastellata in riferimento al fatto che pensa a un piano di investimenti per i trasporti romani da 1 miliardo di euro. In che consiste? Praticamente si vuole pensare a nuove linee tram, al potenziamento della disastrosa linea Roma-Lido, a delle corsie preferenziali, si vuole pensare alle piste ciclabiliche, ma non solo, si vuole pensare anche alla navigabilità del Tevere. Ora, gli esperti contabili del Campidoglio sono un po' allarmati rispetto a questo, perché se i conti non tornano per ADAC, ci sono prima delle priorità che vanno affrontate per questa azienda. Per esempio, ci sono delle priorità che sono, per esempio, l'acquisto dei nuovi bus, interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sugli immobili, oppure anche opere di potenziamento delle infrastrutture. Sono queste le principali linee che si ritengono prioritarie prima del dissesto totale di ATAC. Per quanto riguarda l'acquisto degli autobus, e lo citiamo anche nel servizio, la Linda Meleola, l'assessore ai trasporti, si è fatta consegnare 25 nuovi veicoli, però la strategia per finanziare la manutenzione di metro e bus è ancora tutta da definire. E Giuseppe, se tu c'hai dei messaggi puoi darmeli, perché io qui nel telefonino non ho la diretta, quindi se intanto vedi... chiediamo agli amici che ci stanno seguendo di mettere un mi piace, un condividi, perché bravo. Così gli altri amici ci seguiranno in questo. Bravo Giuseppe. Bene. Insomma, il fattore manutenzione è il problema più critico per ATAC, e tenete conto che per sistemare le due linee metro servirebbero 40 milioni di euro, e per pagare i fornitori ATAC gli servono altri 10 milioni di euro, insomma cifre abbastanza impegnative. Tra l'altro ATAC non sta rispettando gli impegni che ha preso con il comune, perché c'era un obiettivo nel piano di efficientamento di ATAC, cioè quello di diminuire, diciamo così, la perdita delle corse, di diminuirla anno per anno almeno del 5%. Invece le corse se ne perdono tante, e c'è una crescita c'è una crescita in negativo, perché tante corse vengono soppresse invece che, quindi c'è appunto il problema della manutenzione, è il principale problema di ATAC. Allora, io per quanto riguarda ATAC, l'azienda ATAC, i dissessi avrei terminato, però volevamo presentarvi questo servizio che abbiamo preparato con Giuseppe. E... ecco, adesso siamo quasi pronti, per cui sentiremo il nostro amico Guido. Sì, Mastro, così mi Buono. Vedo pure i messaggi. Eccoci qua, abbiamo la fortuna di aver incontrato, pensate, il nuovo assessore ombra del Popolo della Famiglia, l'assessore ai trasporti, Guido Mastro Buono, lo presento. Buongiorno. E praticamente gli vogliamo fare alcune domande, perché lui si occupa di questo servizio, che è l'assessorato ai trasporti. Vogliamo fargli qualche domanda un pochettino tecnica, perché non è soltanto il Popolo della Famiglia un movimento che fa critica all'agire della giunta, della sindaca. Vogliamo fare anche le nostre proposte. Allora, come sai Guido, c'è un autobus fermo su due, la metà degli autobus sono fermi per anni ai depositi, insomma i disagi sicuramente li sperimenterai anche sulla tua pelle. E appena 2 settimane fa c'è stata l'inaugurazione, c'era la sindaca Raggi, c'era l'amministratore unico dell'ATAC Manuel Fantasia, c'era la Linda Meleo, la tua omonima assessore, e praticamente hanno inaugurato uno dei 25 mezzi che saranno messi a disposizione. In realtà ce ne saranno altri 150 e poi ce ne saranno altri 80. Sono autobus acquistati con i soldi dei fondi europei, ma si parlava anche dei soldi del Giubileo. Chissà se hanno fatto il tempo ad acquistarli con questi soldi. La Meleo aveva parlato nell'inaugurazione che questi mezzi erano specificatamente dedicati alle periferie, perché bisognava ripartire da queste porzioni di città, così aveva detto la Meleo. Ma mi sembra che anche tu, in un bellissimo articolo che è apparso il 25 ottobre scorso sulla Croce, sul quotidiano La Croce, avevi parlato appunto, avevi saltato queste porzioni di città che sono le periferie, avevi detto anche tu di ripartire da queste, avevi addirittura detto che le risorse che si danno alle periferie in qualche modo tornano al centro, ma non viceversa. E parlato, ecco, questa è una cosa che mi ha molto colpito, dell'importanza di dare la possibilità alle persone meno abbienti, più povere, la possibilità di muoversi, di viaggiare, di abitare tutta la città. Ecco, dacci una lettura di tutto questo, ovviamente cercando un pochettino di rimanere nel concreto. Allora, guardate un attimo, per prima cosa possiamo fare una considerazione molto semplice per capire questo fenomeno. In una città sana ci sono delle periferie, che sono delle zone più povere, e ci sono delle zone centrali, dove ci sono le persone più ricche. Quindi, in condizioni normali e sane, è normale che la gente che è condannata a stare nelle periferie, nel momento in cui ha delle disponibilità un attimino maggiori, decide di andarsene a godere, prendendo dei servizi un pochettino migliori. Quindi, naturalmente, si sposta dove questi servizi ci sono. Soprattutto quando ha un'emancipazione sociale, tende a spostarsi in una zona più bella. Quindi in pratica i beni, i soldi, si spostano dalle periferie al centro quando va bene con tutte le persone che li possiedono. Il problema, è che noi non siamo in una condizione sana, per cui in questo momento nella società italiana i soldi tendono a fluire anche dai ricchi e dai poveri ai ricchi senza che questi lo vogliano. Cioè, in realtà, invece di favorire un'imprenditoria sana in cui si lavora, si crea ricchezza e si ha un'entrata e anche un giusto interesse per i capitali che si sono rischiati, adesso si cerca di avere delle rendite, cioè si cerca di guadagnare senza lavorare. Queste cose si fanno per mezzo di appoggi politici oppure vendendo dei prodotti che non sono sani, che non rispettano l'ambiente e così via. Grande esempio. Io rimango sempre un pochettino nel tema pratico e mi era venuto in mente che appunto la Meleo, l'assessore ai trasporti della città Alberto Stellata, aveva avviato, aveva detto, proposto la sperimentazione del controllore in alcune linee di autobus, ovviamente sempre in riferimento alle periferie. Ora, la mia domanda è questa, caro Guido, ma cosa ne pensi tu dei controllori? Non si potrebbe ritornare pure una volta quando c'era la figura dei controllori permanenti sopra gli autobus? E questa proposta ha un valore semplicemente di maggiore sicurezza sugli autobus per le persone, per lo stesso autista, oppure potrebbe avere anche un ritorno economico? Mi riferisco al fatto che c'è, come tu sai, secondo fonte aziendale, una evasione tariffaria, cioè non si paga il biglietto su alcune linee, si arriva fino al 40%, quindi immagino che da questo punto di vista ci siano delle migliorie. Puoi un po' spiegarci la tua impressione su questo? Allora, di base la mia opinione è che i servizi pubblici sono dei servizi essenziali, quindi non è che mi innamoro del pagamento del biglietto, perché in realtà si tratta di una tassa che va sui più poveri, quelli che prendono i mezzi. Prendere i mezzi di trasporto è un'attività in favore del bene comune, perché in realtà tu non muovi la macchina, quindi fai meno incidenti e fai meno inquinamento. Certo, quindi bisognerebbe dare una tariffazione che favorisce le famiglie e i lavoratori, cioè quelli che vanno a lavorare, e scarica dei costi sugli avventori, sui turisti, eccetera. Cioè, sarebbe l'idea, per farmi un'idea, di 50 euro abbonamento annuale e 3 euro di voto singolo, cioè in modo che tutti i romani con 50 euro l'anno viaggiare tutto l'anno sui mezzi non sentono neanche, giusto, mentre quando arrivano i turisti gli viene ammazzata. Però ben presente che il biglietto è una tassa, quindi di per sé stesso non è una cosa. D'altro canto io trovo eccezionale l'idea di mettere due operatori su ogni mezzo, per tre motivi, esatto. Il primo motivo è la sicurezza della busta, che per me è importantissimo. Soprattutto di notte nelle periferie abbiamo notato che questo si è verificato, abbiamo fatto delle notizie anche a cronaca della capitale. E comunque in generale gli autisti sono dei servitori dello Stato e vanno operati. Quindi di base c'è una enorme differenza tra essere da solo ed essere in due, anche i poliziotti non in coppia. Quindi come primo motivo secondo me è fondamentale che siamo in due. No, mi rido perché mi viene in mente qualcuno ha detto andate i discepoli di andate a due. Poi il secondo elemento è il fatto che io prendo i mezzi tutti i giorni e soffro di dei disservizi generati dagli utenti. Mi spiego, gente che, scusate, non si lava abbastanza per salire sul mezzo con altre persone che vanno a lavorare, cioè non ci vanno per divertirsi, ci vanno a lavorare. Poi borseggiatori, poi accattoni, poi persone ubriache e così via. Se ci sono due operatori per ogni mezzo viaggiante, ci sono due famiglie che a fine serata mettono un piatto sul tavolo. E quindi questo è un elemento importantissimo, perché non dimentichiamo che il lavoro ha una funzione sociale, il lavoro serve per permettere alle famiglie di sostenersi. Quindi questa idea ci trovo assolutamente d'accordo, ma non per il momento il motivo di fare denaro. D'accordo, ma vedo che tu la vuoi implementare, la vuoi... La voglio implementare e rafforzare, non lo chiamerei controllore, ma lo chiamerei steward. Perché sostanzialmente noi non abbiamo questa foga di fare denaro, perché sappiamo che il denaro c'è. Se il denaro lo trovano per le banche, lo possono trovare anche per le famiglie, giusto, detto chiaramente. Giusto. Però i cittadini devono essere tutelati e per quello ci vogliono due persone per noi. Mi trovi come cittadino completamente d'accordo, però magari se riesci brevissimamente a capire se ci sono dei costi lievitano, perché no, questo significa due stipendi, due... Allora, i costi degli stipendi, se si guardano i bilanci, e i costi dei pezzi sono minimali rispetto ai costi delle vetture, perché fanno queste scene quando dicono oddio c'è troppo lavoro, parlano di redditività, che vuol dire produzione di ricchezza fratto stipendi, non fratto costi, fratto stipendi. Allora, la questione è che se i soldi vengono dati ai lavoratori, si dividono tra tante persone. Se invece trovano il modo di darli a determinati imprenditori, comunque amici dei poteri forti, i soldi vengono concentrati in mano a poche persone, che sono quelle che controllano meglio. Se non ho capito male, Guido, tu mi stai spiegando che praticamente quando si parla di mezzi, di vetture così costose come un autobus, come un filobus, l'altra volta in trasmissione abbiamo parlato dei filobus che arrivavano a costare quasi mezzo milione di euro, paragonati questi costi al costo del personale, andando a vedere nelle spese di bilancio, è molto relativo, è veramente minima la spesa. Quindi si dà importanza alla figura antropologica, all'uomo che lavora, e quindi più posti di lavoro, più servizio, più benessere, senza, come dici tu Guido, che fanno passare cose non vere, dando quindi la possibilità di maggior lavoro, dando più servizi e riportando una verità sui bilanci, perché i bilanci vanno letti con delle cifre relative, non in senso assoluto. Sì, vanno visti come vengono spesi i soldi. Allora, in generale i media vogliono che i soldi vengano dati a poche persone. Noi del Popolo Famiglia vogliamo che i soldi vengano dati a tante persone che li usano per mantenere le famiglie e mantenere i figli. Benissimo. In soldoni la questione è questa. E quindi per non avere i lavoratori devono prendere dei mezzi che costano tantissimo, e invece se tu hai tanti lavoratori, quindi fai la manutenzione, quindi eviti che ti vengano sporcati, rovinati, distrutti, rotti e così via, allora riesci a, giusto, a fare il modo di più. Stessi soldi, dando i soldi alle persone giuste, cioè ai cittadini. Guido, grazie, noi non vogliamo appesantire troppo il servizio perché i minuti passano, e voglio farti l'ultima domanda, e come tu sai è nata una proposta sempre dalla Giunta Pentastellata, dalla Sindaca Raggi, che riguarda la riprogrammazione del servizio di superficie di tram e autobus. Praticamente è stata chiamata l'operazione Verità, che consiste nella diminuzione delle corse per dire ai cittadini: guardate, sono diminuite le vetture, però vi garantiamo l'orario di arrivo alla fermata dell'autobus. Ovviamente questo comporterà, come abbiamo visto nel servizio che adesso chiedo alla regia di mandare in onda, tante persone si sono lamentate e hanno espressamente detto che questo comporterà maggiori attese e soprattutto una vita troppo compatta, diciamo così, all'interno delle vetture stesse. Allora, prima di rispondermi, vediamo il servizio. Cosa sta aspettando? Il 788 che va a Carucci. Da quanto tempo che lo aspetta? Già mezza ora sto qui in una fermata, invece spero una ora, perché non lo so perché questo autobus non passa come l'altro autobus che passano subito, ogni 15 minuti, 10 minuti, ma questo autobus sempre sta... Saluto della proposta della 5 Stelle, della Raggi, si chiama Operazione Verità. Diminuire le corse per rendere più precise gli orari della fermata, cosa ne pensa? La proposta non l'ho sentita, ma è una proposta indecente. Che voto darebbe al servizio pubblico attualmente, da 0 a 10? 0. Casomai devono aumentare le corse, non diminuire, se non di servizio. In una città grande come Roma non si può aspettare così tanto tempo. Che voto darebbe al servizio urbano a Roma di trasporti? 5 e mezzo. Io ho tanto rispetto per la sindaca, quello che decide, per me va bene, però insomma io che devo viaggiare tutti i giorni sono un po' disastrata. Che voto darebbe attualmente al servizio dei trasporti pubblici, da 0 a 10? Usi i mezzi pubblici di solito? Sì, tutte le mattine per andare a scuola, il pomeriggio. La conosci questa proposta della Raggi di diminuire le corse e quindi rendere più affidabile l'orario in cui arriva la vettura? Secondo te potrebbe essere un disservizio? Già le corse comunque sono poche, l'autobus non passa quasi mai oppure passa sempre in ritardo. Quindi, insomma... E che voto daresti al servizio da 0 a 10? Sì. Cosa ne pensa del servizio pubblico? Una tragedia. Perché? Io penso che se si prendono in mano le redini come si dovrebbe, le cose migliorerebbero. Conosci la proposta della Raggi, si chiama Proposta Verità, sul diminuire le corse in atto per garantire perlomeno la precisione dell'arrivo della vettura. Cosa ne pensa? Che è sbagliato, perché già che i mezzi arrivano così in ritardo, togliere anche altre corse, conviene farsela a piedi se arriva prima. Che voto darebbe al servizio pubblico a Roma attualmente, da 0 a 10? Ma in questo momento è un po' scarso, a 5, ma proprio per abbondare. Bisognerebbe un po' essere un po' più precisi. Non si può aspettare un altro 40 minuti, magari per 6-7 fermate. E purtroppo anche questo ci accontentiamo. Eccoci di nuovo dopo il servizio. Hai visto, Guido, questa impressione che abbiamo velocissimamente raccolto dalla gente di strada. E, ecco, viste queste impressioni, cosa ne pensi tu di questa operazione verità? Allora, non sono assolutamente d'accordo su questa scelta, anche dal punto di vista strategico per gestire il servizio pubblico. Sono dell'idea che se abbasseranno l'asticella, cioè l'obiettivo che vogliono raggiungere, presto avremo meno mezzi e ugualmente non affidabili. Perché l'affidabilità dipende sì dalla scarsità di mezzi, ma anche dal traffico, ma anche da problemi dati, cioè dalla strada. Quindi in pratica tu la gente non la porti sui mezzi pubblici, quella si prende la macchina, ti blocca le strade e l'autobus che non vola ma ci passa per le strade, allora finisce per essere inaffidabile. Certo. Tempo stesso. L'altra questione è la poca manutenzione sui mezzi, per cui i mezzi si rompono. Certo. E al tempo stesso, se tu fai girare meno mezzi, si rompono e meno servizi. In generale noi vogliamo vigilare perché i servizi pubblici non vanno abbassati. Secondo me, invece di fare un'operazione verità, che poi così vera non è, secondo me, bisognerebbe fare un'operazione affidabilità. Cioè in pratica bisogna dare un obiettivo a delle squadre che gestiscono un servizio di aumentare l'affidabilità dell'affidabilità del servizio, non solo delle vetture, perché vedi, il servizio è dato dalla manutenzione, è dato dalla possibilità di fare manutenzione in caso di rottura, della velocità delle squadre di emergenza. E quindi in pratica questo vuol dire fare riserve sui mezzi, e ci vuole del tempo, sono d'accordo, però i mezzi fermi ci sono, quindi forse non così tanto tempo, ci vuole della volontà di fare questa cosa, e poi ci vuole una ridondanza del personale, qua torniamo, stiamo continuando a cercare di licenziare più gente possibile, certo. E ottimizzare, dicono loro, ottimizzare vuol dire che tu ogni volta che una cosina non ti viene, se tu hai ottimizzato non hai riserve, si blocca tutto. Quindi l'inaffidabilità non è data dai pochi mezzi, è data dalla volontà di ottimizzare, cioè licenziare gente. Devono avere personale di riserva, mezzi di riserva e parchi di riserva, in modo tale che in questo modo progressivamente raggiungeremo gli obiettivi senza abbassare gli obiettivi. Quindi in questo caso, mentre in genere vi trovate sempre abbastanza favorevole al lavoro che sta facendo Berlino, in questo caso sono completamente in disaccordo, secondo me stanno sbagliando e che cercheranno a sorpresa. Io ringrazierei a questo punto Guido Mastrobuono, assessore Umbra ai trasporti per il Popolo della Famiglia, e ovviamente come avete sentito ci salutiamo non con chiacchiere, ci salutiamo, lui ha lanciato una proposta, al posto della proposta Operazione Verità lui ha parlato di Operazione Affidabilità, quindi confermiamo il fatto che il Popolo della Famiglia c'è sul territorio con delle idee precise, con delle proposte, e non siamo quelli del partito monotematico. Un saluto qui dalla Garbatella e dal Guido Mastrobuono. A presto. Grazie, siamo ritornati in diretta e un pochettino più basta, Giuseppe, grazie. Volevo salutare Guido, avete visto questa bella idea, Operazione Affidabilità anziché Operazione Verità. E volevo ringraziare pure, ho visto, me lo faceva notare Giuseppe, che non ho qui la possibilità di vedere i messaggi, saluto Mauro Rotunno, per questo Giuseppe ha acceso la radio per mettere la musica come sottofondo per leggere una bellissima poesia che ci ha preparato Mauro Rotunno, e una poesia che ci ha messo un po' tutto dentro, e quindi cercherò di leggervela al meglio. Il titolo è un po' difficile, devo andare lentamente perché sennò mi impappino. BDB Body B Stop. Magaragella gli dà de macete, risparmia su famiglie e giro de vite. Pretenne fondi per sta a galla, poi manna indietro milioni, mamma che falla. Ridotte le linee dell'autobussi, ma mette controllori a rifasse l'ossi. All'Inps e il comune non si è segnato, così bonus bebè non è arrivato. Con l'ambulante a paregonata nel 2020 gli danno sistemata. Pochi soldi per l'istruzione, a mensa vegana dieta di minestrone. Lo stadio della Roma non se può fa, il terzo settore è da esorcizzà. Capodanno per strada, forse vedemo, comunicazione su siti che poi paghiamo. Intanto la guerra coi frigoriferi sono diventati nuovi luciferi. Ma a Roma se fa il fai da te, nuovo hobby di un romano su tre. C'è chi giardiniere diventa e ridà vita a aiola spenta, e chi gli piace l'odore d'asfalto e leva le buche col brio e smalto. Riassettano pure le scuole, combattono soli col comune de sole, per non parlare del core che c'hanno, per i poracci se danno l'affanno. Ditemi voi sto nuovo che avanza e solo il resto di gusta assenza, ma sto romano non me levi il sorriso, sei politica faccia del vecchio viso. Neo Pasquini. Grazie Mauro per grazie questa, Mauro per questa poesia, ci hai messo tutto, diciamo, in romanesco, ci hai messo veramente tutto, hai parlato pure dei soldi persi dalla giunta pentastellata, dal sindaco, e perché non si è iscritta all'INPS per far ottenere il bonus quando le mamme al lavoro hanno la possibilità di allattare, le ore che si dovrebbero assentare per allattare eventualmente un bambino potrebbero essere remunerate. Non essendosi iscritta all'INPS, questo è saltato, questa notizia che è uscita anche sulla Croce. lo scorso sabato. Ora, ho notato che tante notizie di cui io volevo parlarvi, in realtà le ho trovate anche sulla Croce. Per esempio, anche se di nuovo questa notizia ha un sapore un po' internazionale, perché parlo del patriarca Kirill, della sua intervista, in realtà è una notizia che ci riguarda per le battaglie che facciamo noi proprio dalla famiglia, ma poi perché mi hanno colpito due fatti di questa intervista. Praticamente il titolo è che il patriarca Kirill definisce le nozze gay come delle leggi naziste, e la cosa che dice è che il matrimonio omosessuale va contro la legge morale degli esseri umani. Ma non è che questa è la grande novità che ci colpisce, perché lo sapevamo. Attualmente la deriva antropologica delle leggi vanno sistematicamente contro la legge naturale, la legge morale. Ma lui dice, afferma, e questo che mi ha colpito, che è la prima volta, ed è vero, è la prima volta che nella storia umana la legislazione va contro la legge morale degli esseri umani. Cioè, questa prima volta. Infatti, se andiamo a vedere, non è che il male non c'è mai stato nel passato. Se andiamo a ripercorrere i secoli di storia, vediamo il male in quantità veramente incalcolabile. È che è la prima volta nella storia dell'umanità che il male diventa un bene. Come dice spesso Mario, ciò che è diventato ciò che non è e viceversa. Oppure, come dice il filosofo Parmenide, l'essere è e il non essere non è. Ecco, abbiamo scambiato, questa è una novità. Ecco, io ho colto questo dall'intervista di Kirill. Praticamente quello che una volta era una virtù è diventato un peccato, e il peccato viceversa è diventato una virtù. Va bene, anzi va male. Ovviamente paragona, come dicevo, le nozze gay a quanto è successo nell'apartheid in Sudafrica, oppure le paragona alle leggi naziste. Dice: certo, non sono la stessa cosa, ma sono entrambe basate su un'ideologia. Infatti l'ideologia è quella che ci ha portato prima, quando abbiamo parlato del figlio comprato di Nichi Vendola, un'ideologia che è staccata completamente dalla realtà, un'ideologia che impone un'idea quando non è assolutamente confermata dalla realtà. E ovviamente, dice Kirill, questa legge la Chiesa non potrà mai approvarla. Lui nell'intervista ha continuato a parlare, ha lodato in certo modo Trump, perché ha apprezzato questa volontà di riavvicinamento alla Russia, soprattutto in riferimento alla possibilità di lottare insieme il fondamentalismo islamico, oppure il radicalismo islamico, insomma il terrorismo. È un terrorismo che guarda, lui dice, tutto il mondo, a partire dall'Europa occidentale, la Russia stessa, l'America. Ecco, è il momento di lavorare insieme. Il momento di lavorare insieme, lui dice, anche in riferimento alla situazione della Siria, cioè che si augura che la coalizione insieme alla Russia possano avere degli spunti in comune per contrastare il fondamentalismo islamico. E un'altra cosa che mi ha colpito di questa intervista, che ripeto l'abbiamo trovata anche sulla Croce e che esce un po' dal coro, è che Kirill apprezza la speranza che ha comunicato, che ha saputo comunicare Trump, cosa che non ha trovato negli altri avversari. Lui dice che è importante instillare speranza in un futuro migliore, lo dice da parte dei leader delle grandi potenze. Ecco, questa un po' va fuori dallo streaming di informazioni che possiamo notare sui giornali, che vogliono magari dipingerci per esempio la Hillary come la salvatrice, ma sappiamo tutti che anche Hillary era veramente un pericolo, non solo per l'America ma per il mondo. E per quanto riguarda i temi che noi ci riguardano, sapete benissimo come operava insieme con Obama, come avrebbe operato per quanto riguarda per esempio l'obiezione di coscienza dei medici, per quanto riguarda l'aborto, eccetera. Sono cose che chi milita nel nostro movimento conosce molto bene. E ora, per quanto riguarda, vedo che il tempo scorre, sarò un pochettino veloce. Ecco, Giuseppe mi prova a farmi degli appunti, perché scusatemi, non c'ho il ritorno dei messaggi, quindi adesso mentre io vi leggo qualche notizia mi dà dei... Volevi dirmi qualcosa? Sì, Giuseppe? Volevo salutare alcuni degli amici che ci stanno seguendo. Bene, Anna Russo, bene. Laura Terrana, Emanuela Pongilupi, grazie, che bene. Sono splendidi a stare seguendo, Paola Procaccini. Ecco, Silvia Lodà, Claudio che integerrimo ci segue grazie ugualmente. a tutti voi, grazie a Giuseppe, interrompimi sempre. Va il nostro abbraccio a tutti questi amici che ci seguono. Grazie. Allora, ovviamente, come avevo detto nella copertina, ricordatevi che ci abbiamo sempre la Madonnina qua vicino, la Natività, mi tiene compagnia. Va bene, come dicevo all'inizio, come vi facevo vedere, parlerò anche del Giubileo. Ovviamente è una notizia che riguarda Roma, perché le porte sante sono state chiuse tutte le porte sante a San Pietro. Quello che mi faceva un pochettino riflettere è che praticamente sui giornali arrivano delle conclusioni un pochettino che lasciano un po' pensare, nel senso, non so quale giornale, se il Secolo dice flop Giubileo, solo 20 milioni di turisti, flessione del 40% rispetto alle stime. Ma sinceramente, ma che ci importa? Non è questo il senso del Giubileo. Oppure in un altro giornale riportiamo notizie: il Papa chiude la Porta Santa, Mattarella e Renzi in piazza San Pietro. Ma non è che ci importa tanto. Oppure altri titoli di giornale parlano del Giubileo in termini di imponente apparato di sicurezza. Sicuramente cose importanti, ma non quanto il senso del Giubileo. E volevo invece riportare una notizia che, guarda caso, troviamo sempre sul nostro quotidiano La Croce. Perché, ripeto, tante notizie non le trovi se non vai a aprire questo giornale, se non vai ad abbonarti, faccio campagna non solo a Radio Maria, ma anche al nostro giornale La Croce. Cerchiamo di abbonarci per avere poi più possibilità di trovarlo al più presto nelle edicole. La Croce c'è un bellissimo articolo di Giovanni Marco Tullio che parla di un spunto che ci ha lasciato Papa Francesco alla chiusura del Giubileo, che è la Lettera apostolica Misericordia e Misera, cioè nel senso che anche qui dobbiamo notare cosa dice la stampa e cosa diciamo noi in questo giornale, il nostro giornale, perché la stampa dice il Papa ha depenalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza. Noi diremmo in romano, no? Marco, Mauro, tu mi ascolti, ma de che? Oppure possiamo pensare che, leggendo alcuni titoli, che il Papa ha derubricato l'aborto, ripeto, in stile romanesco, ma de che? Insomma, praticamente la Misericordia e Misera recita che il Papa in qualche modo concede, oltre il periodo giubilare, la possibilità ai sacerdoti di rimettere il peccato gravissimo di aborto, e lo concede senza più l'apporto del vescovo. In passato, se andavi a confessarti questo peccato, il sacerdote, prima di confessarti, prima di darti l'assoluzione, doveva rivolgersi al suo vescovo. Ecco, questo non ci sarà più. Una cosa che mi ha colpito, che praticamente il Papa, come sapete, ultimamente, ma anche dall'inizio del suo mandato, viene sempre molto frainteso, ultimamente ha capito, come l'antifona dei mezzi di informazione, sta cercando di correggersi anticipando quello che può commentare la stampa, e dice: attenzione, vorrei ribadire con tutte le mie forze che l'aborto è un peccato grave, perché pone fine alla vita di un innocente, pone fine alla vita di un innocente. Queste sono le parole del Papa. Per cui chi pensa che il Papa ha derubricato il peccato di aborto ha sbagliato. E cosa succede? Il Papa ha sdoganato l'aborto? Si domanda nell'articolo Giovanni Marco Tullio. No, però c'è un'altra questione molto importante, cioè praticamente viene cambiato il canone 1398 del codice di diritto canonico, perché prevede la scomunica per questo tipo di peccato. Ora, che cosa dice? Ovviamente, ecco, magari vi leggo o cerco di spiegarvi: chi procura l'aborto incorre nella scomunica late sententia, cioè non solo la donna che ha fatto l'aborto, ma anche il medico, i paramedici, chi l'ha assistita, chi l'ha consigliata, chi ha consigliato questa donna direttamente o indirettamente a abortire, a interrompere la vita di una persona, di una creatura all'interno del suo grembo, è ufficialmente fuori dalla comunione della Chiesa. Questo è l'attuale canone del diritto canonico risalente al 1983. Dice, osserva Marco Tullio, che prima di farci delle domande dobbiamo avere un po' di pazienza, aspettare, come ha annunciato Monsignor Rino Fisichella, il cambio, diciamo così, la modifica che sarà apportata al codice di diritto canonico prima di poterci esprimere. Però ci dobbiamo domandare, cioè, come passerà questo messaggio mediaticamente? Nel senso, c'è il rischio che se ne faccia una manipolazione. E vi dico che già Monica Cirinà, guarda caso, c'è proprio lei, una vera cattolica, come, e anche Roberto Saviano, hanno colto la palla al balzo dicendo, gridando con voce l'abolizione della tutela del diritto di obiezione di coscienza per i medici dalla legge 194, la legge che viene chiamata della tutela sociale della paternità e dell'interruzione volontaria di gravidanza. Ma noi, ecco, in questa notizia vogliamo riportarvi più che altro il senso profondo che voleva Papa Francesco, cioè Papa Francesco vuole non derubricare l'aborto, ma vuole semplicemente dire che per le persone che si pentono, che sono pentite, attenzione, questo termine, il pentimento è fondamentale anche quando si legge nel Vangelo, se tuo fratello pecca 7 volte e 7 volte si pente, perdonalo. No, se pecca 7 volte, perdono, se pecca 7 volte e 7 volte ti chiede perdono, perdonalo. È importante, dice, e la sua intenzione di Papa Francesco è quella di dare il perdono a chiunque lo chiede, e soprattutto quando ci si accosta con cuore sincero al sacramento della confessione. Quindi altro che della Cirinnà o di Saviano. Anche per quanto riguarda queste parole qui, vorrei leggervi una cosa che ho trovato sempre sulla croce, perché, ma io dico, è terribile quello che si legge. Dice, siamo alle 22, lasciami un minuto soltanto. Sentite cosa dice Saviano. Papa Bergoglio parla al mondo cattolico e apre alla comunione le donne che hanno abortito e i medici abortisti. Falso. Perché era già aperta la comunione. Nel momento che c'è un pentimento, devi solo aspettare che il sacerdote si confronti col vescovo oppure va direttamente dal vescovo. L'assoluzione di cui parla non è da processi o accuse, ma da una condanna morale che non avrebbe nel mondo laico ragione di esistere. Cioè, pensa che il Papa sia ancora più avanti dello Stato. L'invito di Bergoglio, dice Saviano, e ai sacerdoti è un'esortazione a dare supporto, a non chiudere porte in faccia a chi soffre. Cioè, soffre non la persona che viene uccisa nel grembo di una madre, ma soffre chi procura l'aborto. Vedete come vengono scambiate la verità, il bene che diventa male e viceversa, il non essere diventa essere. Sentite che dice: la posizione del Papa è moderna per uno Stato antico. Il Papa è moderno e lo Stato è antico. E ha in maniera rivoluzionaria, dice queste parole, rotto con una tradizione di intolleranza, ma vi rendete conto? Verso chi, pur cattolico, si trova costretto a fare una scelta dolorosa, perché questo è l'aborto, una scelta difficile e dolorosissima. Ragazzi, ditemi se questa non è demagogia. Giuseppe, solo un minuto, concludo con le parole della Monica Cirinnà, e ora non ci sono più scuse. Basta, sentite che parole, medici obiettori. Deve essere garantito sempre e ovunque il diritto delle donne ad aborto, libera scelta dolorosissima. Ragazzi, ma vi rendete conto chi stiamo votando, chi abbiamo votato? Ma io voglio dire, ma se fosse un vero comunista io non ci avrei nulla di male, ma se sono persone che si definiscono sedicenti cattoliche, io sarei molto allarmato. Purtroppo il tempo è finito. Saluto a tutti gli amici del Popolo della Famiglia Vi e saluto un anch'io. saluto dal mitico Giuseppe Daria, e grazie per la vostra pazienza, e vi promettiamo che nei prossimi video cercheremo di curare un pochettino meglio l'audio. Scusateci e alla prossima puntata. Un abbraccio a tutti.